Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio. Fra le novità che sono state introdotte dal pacchetto anticrisi del governo passato alla Camera la settimana scorsa, novità che vengono analizzate in lungo e largo dalle guide che vengono pubblicate in questi giorni dalle Sole 24 Ore, una questione di un certo rilievo, di cui abbiamo già parlato qualche settimana fa, è rappresentata dalla quasi totale messa al bando della commissione di massimo scoperto, quella commissione che viene applicata all'apertura di credito in conto corrente ma non sempre in condizioni di massima trasparenza, come ha più volte denunciato in passato l'autorità garante del mercato. Alcune banche l'hanno eliminata, raccogliendo così un esplicito invito che era stato fatto dal governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. Per chi non lo ha fatto, invece, arriva il pacchetto anticrisi che stabilisce, come vi dicevo, alcune novità. La commissione è nulla se il rosso non supera 30 giorni o per gli usi di uno scoperto di conto in assenza di affidamento. Cosa vuol dire tutto questo nella pratica? Stamattina cercheremo di capirlo. In ogni caso ci sembra che dovrebbero esserci in futuro meno sgradite sorprese sull'estratto conto di chi per necessità finisce in rosso, spesso suo malgrado, o deve usare con frequenza uno scoperto di conto o un fido bancario. Chi ci aiuterà a fare chiarezza sulla materia? Il collega del Sole 24 Ore Nicola Borzi, che se ritroviamo dopo un po'. Nicola, ben ritrovato dunque a Salva Danaio. Grazie Deborah, buongiorno agli ascoltatori. E Anna Vizzari, che anche la settimana scorsa invece ci ha aiutato ad orientarci un po' meglio nella materia, per quanto possibile, perché tutt'altro che semplice. Anna Vizzari, Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo. Vizzari, buongiorno. Buongiorno a voi. Vostre domande all'800 24 00 24 per intervenire in diretta. Se ce le volete invece scrivere, il numero è il 349 238 6666. Stamattina la borsa è negativa, di banche parliamo anche perché stanno determinando il nuovo ribasso degli indici europei, che stamattina, dopo la brutta giornata di ieri, avevano provato a risollevarsi, non ci sono riusciti. Adesso sono tutti quanti in calo di circa mezzo punto percentuale in media. Milano perde lo 0,57%, chi sostiene il listino? Telecom più 4,82%, che riaggancia l'euro nominale. Terna più 2,67%, il gruppo sta presentando a Milano il suo piano industriale 2009-2013, evidentemente gli obiettivi fissati sono apprezzati dal mercato. Mediolanum in recupero più 1,71%, Fiat più 1,53%, ormai sta tentando di lasciarsi alle spalle i pessimi dati sulle immatricolazioni comunicati ieri, ma che il mercato si attendeva. A2A più 1,31, Enel più 1,28. Invece c'è un'indagine della Commissione Europea sulle società che producono cavi appunto in tutta Europa. Prysmian è una di queste, e per un presunto cartello sui prezzi. L'indagine riguarda questo, e a causa di questo Prysmian stamattina sta registrando un ribasso del 6% in questo momento. In realtà perdeva di più, in apertura è arrivata a perdere 8 punti percentuali. Tenaris meno 4, e poi ci sono le banche che perdono terreno. Banco Popolare meno 3, Intesa San Paolo meno 2,40, Unicredit meno 1,24, quasi 3 punti di calo anche per Bulgari, Saipem meno 2,70. Insomma, questa è la situazione di quest'oggi. Petrolio stabile leggermente al di sopra dei $40 al barile, l'euro sul dollaro quota 1,28,23, sull'Euribor vi abbiamo già detto nel corso del giornale radio, comunque ha toccato stamattina i minimi dal 28 aprile appunto del 2004 addirittura, quindi siamo al 2,06%, quindi insomma i mutui stanno davvero respirando in questo momento, comunque lo faranno ancora di più nei prossimi mesi. Per adesso direi di lasciare i mercati, andiamo subito al tema di questa mattina. Ritorniamo su un'altra delle novità introdotte dal pacchetto anticrisi, riguarda i conti in rosso, gli scoperti di conto, i conti affidati, la commissione di massimo scoperto. I correntisti possono dormire sonni più tranquilli. Le nuove regole sulla commissione di massimo scoperto, quella remunerazione pagata dal cliente alla banca come contropartita della possibilità di utilizzare importi superiori a quanto depositato sul conto corrente, sono ormai legge. Il nuovo provvedimento inserito nel decreto anticrisi prevede in particolare la nullità delle clausole sulla commissione nel caso in cui il rosso sia inferiore ai 30 giorni. Stessa cosa accade a fronte di utilizzi in assenza di fido, che è tipicamente la situazione in cui si trova la maggior parte dei correntisti privati, mentre è tipico che le imprese concordino un fido già all'apertura del conto corrente. Vengono abolite poi le tanto odiate provvigioni di conto, quelle clausole che prevedono una remunerazione per la banca per la messa a disposizione di fondi, indipendentemente però dall'effettivo prelevamento della somma. Su questo aspetto il cliente dovrà fare attenzione. Le clausole sono sì nulle, ma questa nullità viene meno se c'è un patto scritto tra banca e cliente, non rinnovabile tacitamente, che stabilisce alcuni elementi contrattuali. Le banche adesso hanno 150 giorni di tempo per adeguarsi alle nuove regole. Entro giugno dovranno modificare i contratti già esistenti e predisporre nuove offerte di conto o di fido che escludano le commissioni e le clausole messe al bando dalla manovra. Ma le notizie positive non finiscono qui. Le regole prevedono anche un ampio capitolo dedicato alla trasparenza. Fino ad oggi, infatti, i contratti che i clienti hanno sottoscritto riportavano il tasso applicato, ma quasi mai le indicazioni di calcolo per sapere esattamente a quanto ammontano le commissioni. Un cavillo che non è passato inosservato, tanto che a luglio l'autorità garante della concorrenza e del mercato aveva avviato un'istruttoria, chiusa la scorsa settimana, proprio sulle pratiche commerciali scorrette nell'applicare le commissioni di massimo scoperto da parte delle banche. E infatti alcune banche, alla luce proprio della conclusione di questo monitoraggio dell'antitrust, hanno presentato i loro impegni per affrontare la questione. Magari ne parleremo nel corso della nostra trasmissione. Vi ricordo, potete intervenire all'800240024, scriverci al 349-238-6666. Prima di entrare nel merito delle novità del pacchetto anticrisi, Nicola Borsi, proprio con te abbiamo affrontato nei mesi passati più volte questa questione. Magari possiamo reinquadrare in termini generali l'argomento. Questa remunerazione è da anni oggetto di discussione sulla sua legittimità, tanto da aver portato Bersani sulla sua eliminazione totale. Lui con la sua famosa seconda lenzuolata non ci è riuscito. Il governatore della Banca d'Italia ne ha fatto un altro suo grande cavallo di battaglia, ha richiamato più volte le banche alla eliminazione. Neanche Draghi c'era riuscito, adesso interviene il governo. Voglio dire, per uno scoperto di conto, per un fido concesso, è naturale che la banca chieda una remunerazione. Cosa c'è che non andava nella commissione di massimo scoperto? Ma c'è da dire, Deborah, innanzitutto che questa commissione ha assunto nel tempo delle forme diverse, tant'è vero che alla fine, essendo finita più volte in tribunale da parte di risparmiatori, correntisti, imprese che si sono trovate a pagare questo balzello, è dovuta intervenire anche la Corte di Cassazione, che con una sentenza del 2006 l'ha definita una volta per tutte il corrispettivo pagato dal cliente per compensare la banca dell'onere di dover sempre mettere a disposizione una somma di denaro oltre il fido. Il problema è che questa commissione molto spesso è stata pagata anche quando il fido non era utilizzato, oppure quando si restava nell'ambito del fido, cioè il fido non veniva scavalcato, non veniva oltrepassato. È come per dire, se la banca ti mette a disposizione una cifra, non può utilizzarla per altre finalità, allora tu devi pagare per questo. Cioè, il cliente pagava il fatto che la banca rimanesse in attesa di avere delle disposizioni per mettere a disposizione una somma. Sostanzialmente la possibilità di utilizzare una somma di denaro non presente sul conto corrente. Qual era il problema? Il problema è che questa somma, la commissione di massimo scoperto, non veniva rilevata nel calcolo, ad esempio, dei tassi di usura. La Banca d'Italia la rilevava periodicamente e qualche tempo fa era lo 0,66%, però questa percentuale, che può sembrare poca cosa, non è un dato basso, perché Plus 24, il settimanale del Sole 24 Ore, a luglio aveva fatto un'indagine sull'applicazione della commissione di massimo scoperto attraverso il sito di Patti Chiari e aveva visto che questo 0,66% di media in realtà in alcuni casi arrivava fino al 2,125%, che non è un tasso di interesse, ma era un prelevo secco sulla somma che è stata messa a disposizione del cliente, per cui il tasso annuo in alcuni casi pagato anche per degli sconfinamenti di poche migliaia di euro arrivava fino al 35%. Ed è, diciamo, una percentuale che tra l'altro il consumatore, il cliente bancario in via preventiva non poteva conoscere. Esatto, anche questo molto spesso il consumatore non conosceva, tant'è vero che quando l'antitrust ha aperto queste indagini sui comportamenti commerciali scorretti di quattro grandi istituti di credito nazionali, quattro grandi gruppi, la base proprio sulla di partenza per l'avvio di questa istruttoria era dovuta al fatto che molto spesso il cliente della banca non sapeva assolutamente di dover pagare questo onere. Anna Vizzeri, allora, ne abbiamo parlato anche, dicevamo, settimana scorsa, oggetto ovviamente questo tema di grande interesse da parte dei consumatori che si rivolgono ad altro consumo, anche per avere dei suggerimenti su come comportarsi nei confronti della propria banca qualora ci si ritrovasse appunto nelle condizioni di cui stiamo parlando questa mattina. Per entrare nel vivo magari con con qualche esempio rendiamo anche un po' più masticabile l'argomento ai nostri ascoltatori, che poi lo scoprono loro malgrado solamente quando aprono la comunicazione da parte della banca. Nino da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Cosa le è successo? Dunque, una cosa un po' curiosa. Praticamente nel passaggio da un anno all'altro, questo mi è successo anche a passaggio mensile, nel mio conto aperto presso una banca popolare, mi sono trovato ad andare sotto nel conto di 50 centesimi. Dopo un paio di giorni, essendo un conto online, ho controllato, ho visto che era sotto 50 centesimi, ho coperto con un versamento, e un mese dopo mi sono ritrovato una spesa di scoperto per commissione di 36 euro. Mm. Stiamo parlando di 72 volte quello che io ero andato scoperto. Direi. Lei, Nino, tra l'altro aveva un conto affidato oppure no? All'inizio sì, poi ho chiuso anche l'affidamento, però i 50 centesimi sono andati sotto perché hanno prelevato i bolli. Io, un attimo di distrazione, magari... Certo, ma... 50 centesimi... Ci sta, Nino, certo, ma ha ragione. E quindi, insomma, lei... Eccessivo, ecco, volevo sapere... se posso rivalermi anche sul pregresso. Cioè... beh, certo, anche questa è una domanda interessante, Nino. Anna Vizzeri, sul fatto che sia effettivamente una spesa un po' eccessiva per 50 centesimi di sforamento, che magari sarà anche durato pochissimi giorni, ma qualora fosse anche durato un mese, voglio dire 36 euro su questo, cosa ci suggerisce questo caso? Allora, ci fa capire innanzitutto che la commissione di massimo scoperto è soltanto uno degli elementi di costo che la banca applica quando si va in rosso sul conto corrente. Nel senso che è prassi e che oltre alla commissione di massimo scoperto e al tasso debitore, la banca chieda anche, in molti casi succede delle spese nel caso in cui appunto si va in rosso, quindi delle penali. E probabilmente quello che è successo anche al radioascoltatore, perché appunto su 50 centesimi sono state applicate 36 euro, evidentemente a titolo di penale, perché comunque sia i tassi debitori che la commissione di massimo scoperto non avrebbero fatto raggiungere questa spesa. Possiamo dire che comunque riguardo al pregresso la nuova normativa non avrà effetti. Per cui purtroppo ha fatto benissimo a cambiare sicuramente banca, perché probabilmente sul mercato potrebbe trovare delle situazioni migliori. Qualora si ritrovasse a dover gestire un'altra situazione problematica come questa, per definirla problematica, con 50 centesimi, Nicola, sicuramente magari qualche altra banca potrebbe essere meno rigida e meno severa. Direi di sì, anzi direi che a questo punto conviene anche utilizzare gli strumenti che sono messi a disposizione dalle banche stesse, come Patti Chiari. L'iniziativa Conti Correnti a Confronto consente di visualizzare direttamente su internet, per la tipologia di profilo del risparmiatore, quali sono gli istituti e quali sono i prodotti di conto corrente che non applicano la commissione o che nel caso la applicano in maniera molto ridotta. Ma quello che mi preme rilevare di questa vicenda è anche un altro dato, che molto spesso c'è una differenza tra il rosso, diciamo, effettivo e il cosiddetto rosso contabile. Dipende questa differenza, che molta gente non prende in considerazione, dipende dal gioco dei giorni di valuta. Cioè, se io accredito una somma sul mio conto corrente, l'accredito non avviene nel momento in cui vado in banca e verso la somma e ottengo una ricevuta, ma avviene con il gioco dei giorni di valuta in funzione dei giorni che la banca mi applica per depositare materialmente la somma. Quindi è facile, tra prelievi e pagamenti, trovarsi magari ad avere un conto che apparentemente è in nero e invece per il gioco dei giorni di valuta finisce in rosso, questo cosiddetto rosso contabile. E questo è un altro fattore che molto spesso ha consentito alle banche di applicare la commissione quando il cliente pensava invece di non essere finito assolutamente in rosso. Tra l'altro, questa tua considerazione, Nicola, presta il fianco ad un'altra che aggiungo io. Le banche non hanno mai avuto una prassi uniforme nel gestire la questione della commissione di massimo scoperto. Dicevamo, ci sono alcune banche che addirittura non l'hanno mai applicata, altre che la applicano in una determinata maniera, altre che fanno schizzare invece gli scoperti di conto in maniera notevole. Anna Vizzari. Sì, diciamo che nell'ultimo periodo effettivamente sono apparsi sul mercato dei conti correnti che non applicavano questa commissione di massimo scoperto. Parlo di conti ovviamente per i consumatori, perché poi per le imprese è molto comune l'applicazione della commissione. Sicuramente anche il valore della commissione era variava moltissimo da istituto a istituto. Abbiamo registrato un massimo di 1,75, però c'erano anche istituti che partivano da 0,25. Per cui effettivamente la situazione era molto varia, ma diciamo che l'elemento comunque critico della commissione di massimo scoperto è che si tratta di una percentuale che viene applicata sulla punta massima del debito, indipendentemente dalla sua durata. Quindi anche se rimango in rosso per un giorno per 3.000 euro, su quei 3.000 euro mi applicano la commissione, ed è questo, diciamo, l'elemento proprio di ingiustizia che poi ha fatto intervenire molti, adesso, ecco, anche il pacchetto anticrisi, credo, no? Perché esatto, credo che questa prassi adesso venga invece drasticamente rivisitata, Nicola Borsi. Sì, noi avevamo fatto un'indagine a metà del 2008 su 490 conti correnti presenti nel database di Patti Chiari. E abbiamo visto che la situazione era migliorata rispetto al 2007, però erano soltanto il 13%, cioè appena 63 conti, quelli su 490, che non richiedevano commissione di massimo scoperto. No, è ovvio che il varo del decreto anticrisi cambia le cose, però anche qui bisognerà vedere come verrà applicato poi dagli istituti, perché la grande massa dei conti correnti, cioè quelli che già esistono, prevedono la possibilità di adeguare entro 150 giorni la commissione, quindi innanzitutto per altri 150 giorni la commissione anche su questi conti rimane, e poi bisogna osservare come verrà in qualche modo modificata, perché non è detto che venga sostituita con qualcos'altro. Esatto, può essere sostituita, e comunque bisogna vedere con che cosa viene sostituita e come si calcola questo qualcos'altro. È ovvio che il decreto prevede che questo qualcos'altro sia molto trasparente, perché dovrà riportare un TAEG, cioè un indicatore sintetico di costo, che contenga tutte le voci, quindi da questo punto di vista il cliente dovrà sapere esattamente quanto rischia di andare a pagare. Però il problema è vedere che cosa lo sostituirà. E come questa nuova clausola che verrà introdotta al posto delle clausole precedenti eventualmente ridurrà l'onere, perché non è detto che l'onere materialmente poi alla fine venga ridotto se qualcuno va in rosso per più di 30 giorni. Allora, magari cercheremo poi di addentrarci anche un po' meglio in questi aspetti. Intanto sentirei la considerazione anche di Giuseppe da Roma, che saluto all'800240024. Giuseppe. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo innanzitutto chiedere una validità di questa applicazione della commissione massimo scoperto, quando già si sa che in Italia le cose vanno male già da molto tempo, da quando è entrato in funzione l'euro, ma poi con questa crisi mi pare che non c'è da sorprendere se i clienti delle banche corrono il rischio di andare in rosso, e a me succede senz'altro, anche perché vado avanti con una pensione e sono pensionato. Come capita a molti, Giuseppe. Il tema è, mi scusi se la interrompo adesso senza tornare a richiamare, come dire, no, adesso la faccio concludere senza dover ritornare indietro di tanti anni con l'ingresso dell'euro che dobbiamo sempre tirare in ballo per tutto quanto. Il tema è che quantomeno la banca le comunichi con una certa trasparenza le condizioni che le applica, se lei avesse bisogno appunto di andare in rosso, di utilizzare lo scoperto di conto. Quindi, Giuseppe, che cos'è che lei stava, come dire, contestando? Niente, contestavo questa, cioè la giustificazione di questa commissione massimo scoperto, quando la banca poi applica degli interessi su questi scoperti che rasentano proprio il tasso di usura, perché arrivano a farti pagare sul rosso il 15%. Beh, insomma, Giuseppe, è intervenuta la legge proprio perché era ritenuta un balzello ingiustificato, ci è voluto un po' di tempo, poi alla fine a quanto pare le cose si metteranno a posto. Abbiamo ancora 150 giorni di tempo, Nicola, come dicevi tutto prima, l'importante è capire se verrà sostituita da qualcos'altro, l'importante è che questo qualcos'altro sia trasparente. Eccoci ritrovati in diretta stamattina a Salvadanaio. Mi pare di aver capito che abbiamo toccato di nuovo un nervo scoperto per molti ascoltatori, molti dei quali ci raccontano che evidentemente sono costretti per necessità personali a vivere con il rosso perenne del conto corrente. Questa è una pratica che ovviamente ha portato a qualche disagio, a volte anche a qualcosa di più di un disagio. Parliamo anche degli imprenditori che sono costretti anche a finanziare molto spesso la propria attività attingendo dai conti affidati, e tutto questo insomma oggi ci ha dato il modo per ritornare su una questione sul quale è intervenuto il governo di recente, mettendo al bando la commissione di massimo scoperto. Probabilmente però le banche hanno modo di adeguarsi alla nuova normativa in 150 giorni entro giugno. Il dubbio è a questo punto se sostituiranno questo balzello con qualcos'altro. L'importante è che lo facciano quantomeno nella massima trasparenza possibile. Poi se non se non lo facessero sarebbe anche meglio. Nicola Borsi, eravamo rimasti alla racconta, alla considerazione di un ascoltatore di Roma che ci diceva: comunque per me è un concetto del tutto ingiustificato, anche le autorità se ne sono rese conto, sono intervenute, il tema è che però l'applicazione di questa commissione portava anche come dire il rosso del conto ad un livello tale da toccare e superare i tassi di usura, senza che però questo balzello rientrasse nel conteggio di questo. Ci puoi spiegare un po' la questione? Sì, il problema di fondo reale è che la commissione di massimo scoperto, proprio perché essendo un prelievo su una somma variabile, non era predeterminabile come valore al momento della determinazione del tasso di usura, per cui non entrava nel tasso di usura. Non entrando nel tasso di usura poteva succedere di tutto. Ripeto, con l'indagine di Plus abbiamo visto che il tasso annuo pagato su uno scoperto anche di un solo giorno per delle cifre limitate poteva arrivare in alcuni casi, applicando dati di mercato, anche al 35%, quindi due volte il livello di usura ad esempio su degli affidamenti di altro tipo. Addirittura si era arrivati al punto che in alcuni casi clienti, specialmente imprese, si erano rivolte ai tribunali chiedendo di agire nei confronti di alcune banche con l'accusa di usura, proprio perché la commissione di massimo scoperto aveva portato i tassi sugli affidamenti a dei livelli assolutamente eccezionali. Questo però cosa significa? Significa che se ora le commissioni di massimo scoperto verranno sostituite con degli altri tipi di clausole che però consentiranno la perfetta trasparenza al cliente, ci dovrebbe essere quantomeno una maggiore capacità non soltanto del risparmiatore di scegliere, ma anche una maggior concorrenza sul mercato, anche perché secondo il Codacons, che in questi giorni ha annunciato di intendere avviare delle richieste di rimborso proprio sulla commissione di massimo scoperto, l'applicazione della commissione ogni anno porta nelle tasche delle banche circa 40 miliardi di euro di incassi netti, cioè delle somme enormi. Certo che però anche queste iniziative, non me ne voglia Annavizzari delle associazioni dei consumatori, vedremo dire, se sono effettivamente praticabili, perché esatto, gli annunci perché poi sono belli, ma andare effettivamente a portare una banca in tribunale e riuscire in base a una norma successiva a ottenere un rimborso non sembra un percorso molto molto semplice. Annavizzari vuole replicare a questo. Io volevo replicare che altro consumo è cosa diversa dal Codacons. Come ho detto prima, il pregresso probabilmente non avrà effetti vero da questo provvedimento. Volevo però anche aggiungere che la commissione di massimo scoperto non è che scompare completamente, esatto, in realtà rimane, esatto, per cui in realtà rimarrà anche nei contratti non soltanto delle imprese ma anche dei consumatori, infatti, con una clausola differente. Infatti, tra l'altro, proprio essendo state invitate a far questo dall'antitrust, alcune banche hanno già reso noto come verranno denominati i nuovi prodotti, chiamiamoli così. Faccio qualche esempio, qualche agenzia su questo. Monte dei Paschi sta introducendo una nuova commissione alternativa che si chiama corrispettivo sull'accordato, commisurata all'importo dell'affidamento accordato e ai giorni di permanenza dello stesso. Unicredit Banca di Roma ha previsto un nuovo prodotto di finanziamento a breve termine con una struttura di prezzo semplificata, priva, dice, della commissione di massimo scoperto, che però contempla una nuova commissione denominata corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi. Vabbè, si chiamerà in maniera diversa. San Paolo, che invece esatto modificherà la sua commissione, eliminando la commissione di massimo scoperto, ma introducendo la commissione di mancato utilizzo. Cioè, e questa se, che cos'è? Se la banca accorderà un fido e il fido, l'apertura di credito, non verrà utilizzato, il mancato utilizzo di questo fido sarà oneroso. E quindi attenzione pure a chiedere i fidi se abbiamo, come dire, la quasi certezza che non dovremmo utilizzarli, anche se ci servono a volte per, come dire, una situazione di paracadute. Facciamo bene i conti anche su questo, perché la banca non è che ce lo concede gratuitamente. Reintroduciamo di nuovo i nostri ascoltatori. Gianfranco da Udine, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Volevo segnalarvi solamente un caso che mi è capitato personalmente. Controllando la progressione dell'estratto conto, ho verificato di avere una certa disponibilità in data 26 del mese. Ho eseguito tramite internet, ho dato ordine di un bonifico in data 28 con valuta 27. La banca ha retrodotato la valuta ordinante il 22, facendomi andare ovviamente in rosso. Su questo rosso ho pagato il 13,75 come massimo interesse debitorio, con un 0,95 invece l'aliquota applicata sulla base di calcolo, sull'importo, che fra l'altro era un importo minimale. Però qui non stiamo parlando di un conto in rosso, perché al giorno di valuta del beneficiario, certo, il conto era assolutamente coperto. E quindi insomma lei chiede se la banca ha adottato un comportamento corretto retrodatando la data del bonifico, insomma presumendo che lei lo facesse il 22. Mi pare che Nicola Borsi scuote la testa. Sentiamo prima Anna Vizzari. A mio avviso siamo in un rosso di valuta sostanzialmente, quindi visto che la banca può addebitare sul conto, addebita di solito i fondi sul conto del correntista qualche giorno prima rispetto al momento in cui l'operazione viene a essere fatta, questo è successo, quindi nel caso specifico siamo 6 giorni prima rispetto all'operazione. È così che accade, cioè la valuta di addebito è precedente, la valuta di accredito è successiva in genere rispetto all'operazione. Però no, ma mi stavo chiedendo, anche a me è capitato di fare dei bonifici online che hanno una certa data, ma io do disposizione affinché comunque la data di valuta sia un'altra, magari precedente alla però giornata. Però quella è la valuta del beneficiario, la valuta che noi indichiamo è la, diciamo, il giorno di accredito della somma per il beneficiario del bonifico. Quindi Gianfranco non può far niente? La sensazione che ho io è che purtroppo in questo caso non ci sia possibilità di intervenire, proprio per le motivazioni espresse da Vizzari. Francesco dalla provincia di Caserta. Gianfranco, mi dispiace. Francesco. Sì, perfetto. Secondo me il caso è lo stesso di Gianfranco. Sì. Però un conto non affidato, mai stato a rosso, abbiamo ricevuto un bonifico di 4.000 euro. Nella stessa giornata del credito abbiamo fatto un bonifico per effettuare un pagamento. Sì. E mi ritrovo un costo commissioni e compagnia cantando di circa 50 euro addebitate. Lei perché praticamente l'accredito che ha ricevuto lo ha contestualmente girato per lo stesso identico importo, Francesco. Certo. Però anche in questo caso la banca gli ha accreditato la somma di 4.000 euro in data X, e quando questa somma alla data X è stata versata su un altro conto, la banca però ha preso la valuta data X meno 3, X meno 5, e quindi si è creato per il gioco delle valute una differenza di 4-5 giorni su cui la banca ha applicato la commissione. Allora, questi sono casi già successi. Anna Vizzari, secondo la nuova disciplina, i casi che abbiamo ascoltato dovrebbero essere gestiti, disciplinati in maniera diversa? Allora, nel senso che si tratta ovviamente di rossi che sono durati meno dei famosi 30 giorni. In alcuni casi ho sentito anche in assenza di fido, quindi sostanzialmente la commissione di massimo scoperto non dovrebbe essere applicata. Rimangono però i tassi debitori e nel caso in cui sia stato concordato le famose penali di cui parlavamo prima, oppure le commissioni nuove che sono state introdotte alle banche appunto utilizzando il meccanismo della sostituzione la commissione con queste famose penali. E comunque poi per quello che riguarda invece l'addebito e l'accredito e i giorni di valuta non cambia niente. Il meccanismo non interviene. No. E insomma, quindi qua forse bisogna anche fare un po' di attenzione a quando si fanno queste operazioni, non c'è niente da fare. Se noi riteniamo che per un certo giorno magari il nostro conto è coperto e andiamo sul sicuro, in realtà quello delle valute è un aspetto che non teniamo assolutamente in considerazione, Nicola. È un po' difficile farlo. È un problema specialmente per i risparmiatori. Le imprese hanno in qualche modo la possibilità di intervenire e poi hanno una maggior competenza, ma il piccolo risparmiatore che ha un conto corrente sul quale fa transitare delle somme difficilmente si mette a fare dei calcoli che poi tra l'altro a volte sono anche opinabili, perché non è detto che le condizioni di valuta che la banca applica debbano essere conosciute in precedenza. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Continuano ad arrivare messaggi che sono dello stesso tenore degli ultimi due casi che abbiamo ascoltato. Fatto un errore, ci racconta un'ascoltatrice Anna, nell'indicare la valuta in una disposizione di bonifico online, la banca mi ha addebitato 300 euro, quindi immagino anche che la somma che transitasse fosse abbastanza alta. Sono stato in rosso per un solo giorno, non avevo mai avuto problemi in 15 anni, mi sembra un onere eccessivo. Tra l'altro ribadiamo magari Anna Vizzari, la commissione di massimo scoperto viene messa al bando come dicevamo per in determinati casi, però non è che il fatto di sforare sul conto sia poi una situazione che la banca ci fa passare così sotto gamba. Perché appunto, come abbiamo anche sentito, i tassi debitori sono comunque abbastanza elevati. Noi abbiamo registrato in media il 13,64 sui conti non affidati, il 12,89 sui conti affidati, ma si arriva anche al 18%, per cui si tratta di somme già consistenti soltanto per, considerando soltanto i tassi. Se poi aggiungiamo appunto le penali, le famose penali, si arriva a somme comunque appunto molto elevate. Quindi attenzione. Lidia da Roma, buongiorno, l'ascoltiamo volentieri, poi le diamo una risposta dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Buongiorno, buongiorno a voi. Senta, io volevo denunciare, posso dire l'istituto, praticamente la Banca di Roma Unicredit. Vabbè, tanto abbiamo citato anche noi prima. Vabbè, ecco, se le è successa una cosa... Io ho un conto da 28 anni, quindi non ero mai stata andata in scoperto. Mi hanno dato un fido non richiesto, tra l'altro, perché io non ho un'attività commerciale, ma era soltanto un... avevo l'accredito dello stipendio, sempre col sistema silenzio-assenso, in cui mi applicavano un tasso di scoperto di 14,75. Cioè io dopo le mie rimostranze eccetera non mi volevano nemmeno togliere il fido, che poi tra l'altro dovevo pagare una commissione di 30 euro all'anno, quando poi questo noi per convenzione con la nostra società, questa banca ci dava lo scoperto, cioè gratis, cioè, sì, chiaramente su la media, no, dei giorni di scoperto. Cioè in questo modo, questo è successo l'anno scorso, e io sono dovuta stare 8 mesi per farmi togliere questo scoperto, perché altrimenti dovevo pagare 30 euro l'anno. Ha valutato la possibilità di chiudere tutto il rapporto con la banca, Lidia, e andare da un'altra parte? Io capisco che lei L'ho valutato, ma non lo potevo fare perché mi facevano pagare tantissimo, ma adesso lo farò, perché avevo aperto un conto titoli. Poi tra le altre cose all'Italia, che non vale più niente. Queste sono le famose pratiche commerciali scorrette su quali l'antitrust continua a monitorare, ma ancora non con completo successo. Lidia, tra l'altro, lei ci ha dato anche modo e ci ha dato anche un suggerimento per un altro tema sul quale potremo sicuramente tornare prossimamente, perché sulla gestione dei conti correnti non andiamo da tanto, sulle spese di chiusura conto avevamo fatto una marea di puntate in passato, dovrebbero essere state quasi completamente eliminate a seconda ovviamente delle condizioni del conto, ma quanto si incagliano ancora i conti e la chiusura di questi, se c'è agganciato un deposito titoli, un conto titoli, Lidia, effettivamente un problema aperto, un nervo scoperto anche questo. Allora, Anna Vizzari voleva commentare il caso di Lidia. No, volevo ricordare che comunque anche per la chiusura del deposito titoli ci sono state dei miglioramenti col primo provvedimento Bersani, per cui anche quando si chiude il conto titoli le spese di estinzione non ci sono più, il trasferimento dei titoli dovrebbe avvenire gratuitamente, al massimo la banca chiederà un rimborso spese legate alla tipologia di titolo, però non siamo più nelle situazioni precedenti di penali veramente eccessive per la chiusura del conto. Magari certo, un problema avere all'Italia però sono titoli ormai che non sono più quotati, per cui anche là voglio dire. Certo, no, ma infatti non penso che la banca abbia detto che non poteva essere chiuso il conto perché c'erano... No, ha fatto un po' di resistenza, secondo me, se Lidia... Beh, però ha lottato 8 mesi e anche questo ci dà la misura di come continuiamo ad essere comunque delle controparti molto, molto deboli. Tra l'altro, un conto affidato senza richiesta, Vizzari. È un po' strano, nel senso che in realtà quando c'è un conto affidato c'è un contatto un po' più diretto tra banca e cliente, per cui il cliente dovrebbe proprio chiedere e firmare appositamente una richiesta di fido. Per cui diciamo che forse è passato un po' sotto banco la cosa, cioè nel senso nell'insieme dei documenti, che effettivamente sono tanti, che vengono consegnati al correntista, probabilmente è stato anche fatto firmare qualcosa. Ma sì, perché da quello che abbiamo capito era un rapporto di conto anche che aveva il supporto di una convenzione forse della società per la quale Lidia lavora, e capita molto spesso, e magari insomma la banca ha fatto questa proposta a Lidia con altre cose, però non perché noi riteniamo che Lidia sia così sprovveduta, banalmente magari Lidia, perché non ce lo scrive un po' nel dettaglio questo caso, che lo leggeremo molto, molto volentieri. Daniele da Pavia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ascolta, il mio caso è diverso da tutti, penso, nel senso che la mia banca fa pagare il massimo scoperto su un anticipo fatture di cui ho un affidamento. Io non ho fidi di cassa, quindi non sono mai andato in rosso, ho sempre utilizzato solo esclusivamente l'anticipo fatture. È capitato anche, per dire, nel trimestre non utilizzassi questo anticipo fatture, l'ultimo giorno, il 30 del mese, averlo utilizzato, quindi il mese successivo negli interessi era più alto il massimo scoperto che non quanto fossero alti gli interessi, anche per un solo giorno. Daniele, mi deve scusare solamente per un aspetto, perché io non capisco il meccanismo dell'anticipo fatture. Anna Vizzari, mi può aiutare? Poi magari chiediamo qualche aggiornamento, diciamo, qualche precisazione. È una modalità maggiormente utilizzata dagli imprenditori piuttosto che dai consumatori. Comunque diciamo che la banca fa un prestito che è garantito da una fattura che poi verrà ad essere pagata più avanti. Quindi sostanzialmente rientriamo sempre nella tipologia dei prestiti, dei finanziamenti, su cui poi la banca può applicare anche una commissione di massimo scoperto, come la può applicare anche sull'apertura di credito in conto corrente e su altre tipologie. Quindi ritorniamo sempre comunque ai casi prima. Daniele, aveva concluso? Daniele. No, volevo sapere se era a posto, perché io ho fatto commentare una frazione del suo intervento ad Anna Vizzari, ma così voleva semplicemente raccontarci il suo caso. Diciamo che più che quanto le costa tutto questo giochetto? E questo giochetto costa caro, perché nel senso che se per un giorno solo porto, che dire, 200.000 euro di fatture e nel trimestre, non so, nel trimestre, dopodiché arrivano gli interessi che sono trimestrali, per un giorno solo mi fanno uscire di 200.000 euro per un massimo scoperto di cui non pago interessi, si può dire, perché paghi interessi che sono bassissimi, ma questo massimo scoperto ti fa esplodere la cosa per un giorno. E infatti, Daniele. Quindi infatti. Anche allora, questo è uno dei casi che dovrebbero rientrare nell'applicazione del decreto. Del decreto, quindi teoricamente, diciamo, gli oneri in futuro per Daniele dovrebbero essere inferiori. No, dovrebbero scomparire nel momento in cui questo rosso non si verifica per più di 30 giorni. Tra l'altro, no, Anna Vizzari, volevo tornare magari di nuovo con lei. Allora, alla luce della nuova disciplina, io sono un consumatore medio, ho una disponibilità sul conto corrente, accredito regolarmente il mio stipendio, magari sul conto corrente ho l'addebito delle bollette, e vado in banca solamente magari per definire meglio la questione. So che mi capita ogni tanto di andare in rosso, perché magari, che ne so, la rata del mutuo che a volte arriva, arrivando a fine mese, quando arriva la famosa quarta settimana, sono un po' in difficoltà, cioè, come vado a trattare anche con la banca l'apertura di un conto affidato? Come si fa? Anche in questo caso non è molto facile, diciamo così, contrattare questa situazione. È vero comunque che sui conti affidati i tassi debitori che vengono a essere applicati sono solitamente più bassi dei conti non affidati. È anche vero però che la nuova normativa, visto che dà dei vantaggi a quanto pare ai conti non affidati, perché la commissione di massimo scoperto non dovrebbe mai essere applicata in assenza di fido, porta in realtà a pensare che paradossalmente sarebbe meglio per il consumatore non avere un conto affidato. Però mi pare di capire che qua c'è un numero sempre crescente di famiglie che invece ha necessità di una certa elasticità nella gestione del conto corrente. Anche sui conti non affidati, se poi tutto avviene con poi il successivo accredito, viene coperto con il successivo accredito dello stipendio, diciamo che la banca comunque permette il rosso di conto corrente, come anche succede adesso, no? Cioè non è necessario comunque chiedere già al momento dell'apertura di avere un fido. È una cosa in più che può essere chiesta, appunto perché si ha un vantaggio sul tasso debitore, quello sicuramente. Fernando da Massa. Eccomi qua. Eccolo. Allora, guardi, io vi sto ascoltando e sono un ex direttore di banca, che ora sono in pensione. Stavo guardando proprio stamani alcuni estratti conto che un amico mi ha portato. Allora, una banca... E lei ha pensato, ma chi me l'ha fatto fare quel lavoro là? No, ma perché ora ascoltavo anche l'imprenditore che ha una linea di credito come anticipi su fatture, sì. E come avere una linea di smobilizzo portafoglio. Nel caso specifico, allora, questo amico ha diversi istituti. Ne ho preso uno che è più significativo, un conto affidato per linea di smobilizzo portafoglio, e il conto corrente dove non ha affidamento. Allora, su questo conto non affidato, per effetto, ora lo sto analizzando, per saldi per valute, quindi lui va scoperto per valute, perché magari utilizza precedentemente alla maturazione di portafoglio. Che è la situazione più, mi viene da dire, viscida, perché è quella della quale non ci accorgiamo, no? Consapevolmente, Fernando. No, assolutamente, perché lui pensa di avere la disponibilità perché è maturato il portafoglio. Infatti. La banca glielo accredita mettiamo 10 giorni lavorativi e lui magari il decimo giorno di calendario fa gli stipendi, conta di avere la disponibilità. La disponibilità non ce l'ha, va scoperto per valuta. Allora, il caso in questo trimestre, conto non affidato, allora mi paga 331 euro di interessi debitori, mi paga 515 euro di commissione di massimo scoperto, dove la commissione di massimo scoperto è allo 0,375 su un importo, allo 0,75 su un altro, quindi quasi la commissione di massimo scoperto è addirittura quasi il doppio. Certo, Fernando, noi purtroppo dobbiamo chiudere tra un po', quindi sintetizzando... tutto poi, le spese gli fanno un addebito per affidamenti e o scoperti. Ma lei quando faceva il direttore di banca queste cose come le gestiva? No, le gestivo in maniera diversa. Intanto, cioè, mi sta dicendo che aveva anche una certa discrezionalità, ecco, di trattare con ovviamente l'interlocutore che si trovava davanti, potesse essere una famiglia che... Perché non è possibile che paghi 1110 euro su un conto non affidato dove gli interessi sono un terzo delle spese generali. Insomma, questa è una situazione, Fernando, la ringrazio molto per la sua testimonianza. Situazioni pregresse che adesso non dovrebbero più verificarsi, almeno in questa misura eccessiva. Nicola, 30 secondi di tempo per concludere, ci dovremo tornare a vedere anche qua, monitorare pian piano come avverrà l'adeguamento bancario in questi 150 giorni. Si riapriranno anche le trattative, secondo te, con Associazione dei Consumatori, ABI, per l'applicazione delle nuove regole? Il mio timore, basandomi sull'esperienza delle lunghe discussioni seguite al varo dei decreti Bersani, è che tutto questo porterà molto tempo, comporterà la necessità di utilizzare molto tempo e molte discussioni, e oltretutto non sarà semplice perché, ripeto, le commissioni non vengono eliminate, cambiano nome, cambiano forma. Quello che rilevo io però è che c'è una necessità fortissima da parte di tutti, a partire dai risparmiatori, di un minimo di conoscenze per pianificare il proprio bilancio, perché è vero che è facile andare in rosso, però bisognerebbe cercare sempre di strutturare le proprie uscite, le proprie entrate, per evitarlo, proprio perché, come abbiamo visto, anche un giorno solo di rosso comporta dei costi, e mettendoli tutti in fila alla fine dell'anno si parla di decine, centinaia, a volte migliaia di euro su dei rapporti nei quali il cliente ottiene magari 20, 30, 40 euro di interessi attivi all'anno. È un suggerimento assolutamente ragionevole, problema che in questo momento così delicato per molte famiglie è molto difficile stare è molto complicato. Ci ritorneremo magari con qualche suggerimento ancora più pratico e concreto per i nostri amici che ci seguono da casa. Salvadanaio torna domani. Grazie a tutti da Deborah Rosciani.